Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. L'autunno alle porte rappresenta un nuovo inizio per il mondo della produzione e dei servizi. Dopo l'eccezionale e inaspettata fase di blocco di gran parte delle attività economiche italiane causata dalla pandemia di Covid-19, quali sono ora le aspettative per le aziende? L'autotrasporto merci, pur avendo continuato a lavorare durante il lockdown, ha subito un profondo calo dei traffici legato al calo delle attività produttive. Di recente però il governo ha approvato una serie di misure che dovrebbero dare nuova linfa al settore, come l'incremento del fondo per le spese non documentate, contenuto nel decreto agosto, o lo stanziamento di ben 122 milioni di euro per rinnovare il parco veicolare. Un provvedimento che, oltre a rendere meno inquinanti e più sicuri i mezzi, contribuisce alla competitività delle imprese. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica, un mondo che sta per ripartire con la ripresa produttiva autunnale, anche se in realtà neanche in questo passato, ormai mese di agosto, si è mai fermato e ha garantito ancora una volta il trasferimento dei beni, delle merci in Italia e nel resto del mondo ovviamente. Un mondo che si trova ad affrontare ancora una serie di criticità, ma con una serie di problematiche che però sono state risolte in queste settimane. Per fare un po' il punto della situazione, il nostro ospite quest'oggi, Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e di UNATRAS, la confederazione che raccoglie una buona parte delle associazioni di categoria del settore. Buongiorno Genedani, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, agosto ormai trascorso e alle spalle, però è stato un mese importante per il settore dell'autotrasporto perché sono arrivati alcuni provvedimenti normativi che stavate aspettando da tempo. Quali? Ma sicuramente la cosa principale che stavamo aspettando era per poter chiudere quella che è la dichiarazione dei redditi, quindi pagare le tasse allo Stato che ha bisogno di soldi relativamente ai redditi 2019, un anno che era andato abbastanza bene come economia. Aspettavamo che venisse ratificato dall'Agenzia delle Entrate l'importo delle spese non documentate, quelle spese che deduce l'imprenditore che guida in prima persona, che erano di un importo modesto rispetto agli altri anni, però grazie alla promessa fatta dalla ministra De Micheli ci ha riportato queste spese non documentate a 48 euro giornalieri come gli altri anni, quindi questo è contenuto nel decreto agosto ed è stato un risultato molto importante. Questa è la cosa principale che ha chiuso un capitolo che in pratica sia l'autotrasporto sia lo Stato possono perfezionare e andare avanti. Ed era una delle aspettative appunto del settore, ce ne sono altre e qualche altro provvedimento potrebbe essere in arrivo proprio in queste settimane, quale? Siamo in attesa e sembra che sia vicino la ripubblicazione dei costi di riferimento d'esercizio, una cosa richiesta da tempo, una cosa che è una legge dello Stato che non veniva rispettata dallo Stato, per essere molto chiaro, quindi noi stiamo aspettando questa ripubblicazione che dovrebbe essere di imminente pubblicazione, scusate il giro delle parole, ma è così, e quindi nei prossimi giorni o nei prossima quindicina dovrebbe uscire anche questa ripubblicazione che darà un valore aggiunto sicuramente alla categoria per razionalizzare quello che è anche il mercato, soprattutto nel riguardo della sicurezza, perché come si dice, se viaggi a una certa tariffa purtroppo non puoi fare manutenzione, quindi la sicurezza deve essere rispettata. Spieghiamo un attimo ai nostri radioascoltatori che cosa rappresentano questi costi minimi di esercizio, perché una volta questi costi erano costi obbligatori e adesso invece sono dei costi di riferimento. Qual è la differenza? Sono un indicatore di riferimento, come dice la parola, per fare una trattativa che può essere la trattativa col committente. Non sono obbligatori come erano una volta si diceva se tu lavori a meno di questi soldi vuol dire che non fai manutenzione eccetera eccetera eccetera. Oggi questo qua è esclusivamente un riferimento, un valore aggiunto che si dà in mano alla categoria per fare una trattativa e gli si dice al trasportatore guarda che se lavori a questa tariffa tu sicuramente non potrai fare manutenzione, non potrai seguire il camion come deve essere seguito, quindi automaticamente la sicurezza va in cavalleria. La sicurezza oggi è una cosa molto importante. importante, come sempre. Certo, ci sono tante altre novità che riguardano anche il settore dell'autotrasporto. Una, l'inaugurazione questa settimana della galleria di base del Monte Cenere, un collegamento ferroviario verso la Svizzera, atteso per il trasferimento delle merci soprattutto. Ecco, quanto è importante in questo momento e quanto lo sarà sempre di più in futuro il discorso delle intermodalità, cioè della possibilità di far viaggiare le merci utilizzando varie modalità di trasporto, la gomma è uno, poi c'è la ferrovia, ma ci sono anche ad esempio le autostrade del mare. Beh, sicuramente l'intermodalità sarà il futuro del trasporto delle merci, soprattutto per superare o per bypassare quelle le catene montuose che abbiamo, diciamo, a ridosso dell'Italia, quindi le Alpi, che tutti i giorni ci creano problemi. Basta guardare il problema dei divieti della A22, il superamento della A22, quindi oggi più che mai i Ceneri è un valore aggiunto importantissimo, perché collega è collegato alla galleria del Gottardo, quindi l'intermodalità, il camion può arrivare, diciamo, ai confini di svizzeri e italiani, salire sul treno e sbarcare, come si suol dire, in Germania. Stessa cosa sicuramente la questione delle navi, la modalità terra-mare sarà una modalità in futuro sempre più utilizzata, per il semplice motivo che la gomma diventerà concorrenziale per le brevi distanze, ma per le lunghe distanze, se non si sopperisce con la ferrovia, non si potrà sicuramente trasportare e movimentare le merci come abbiamo fatto fino ad oggi, visto quello che è l'aumento, diciamo, della movimentazione delle merci in continuo aumento. E probabilmente anche il discorso dei costi minimi di riferimento potrebbe aiutare questo trasferimento modale, quelle di cui parlavamo prima. Ecco, a questo proposito, ormai lo dicevamo all'inizio, l'autunno è alle porte, c'è una ripresa produttiva, l'autotrasporto non si è mai fermato, ma forse un po' la produzione sì. Quali sono le vostre aspettative sulla ripresa economica dell'Italia, che poi ovviamente significa anche ripresa economica dei trasporti? Beh, come ha detto lei, non ci siamo mai fermati, anche durante il Covid abbiamo sostenuto il sistema Italia, chiaramente. In questi mesi che hanno preceduto agosto, direi che le nostre aziende hanno dovuto lavorare in una maniera importante per sopperire a quello che era, diciamo, la mancanza di movimentazione e di apertura delle aziende nel periodo del lockdown. In agosto si è lavorato, in autunno stiamo anche noi alla finestra a vedere, con la speranza che ci sia una continuità dell'operatività delle nostre aziende, ma soprattutto delle aziende che producono, quindi la movimentazione delle merci. Quindi stiamo a vedere, siamo alla finestra a vedere quello che succederà in ottobre e novembre. Speriamo che comunque con una parte economica importante che l'Europa darà anche all'Italia, che il governo faccia dei progetti positivi per far sì che riparta le imprese, che riparta la produzione, che riparta tutto quello che è l'indotto della produttività italiana. Quindi un'aspettativa sicuramente positiva rispetto a quello che succederà nel nostro paese da qui ai prossimi mesi e ai prossimi anni. Quali sono invece le emergenze che il settore dell'autotrasporto dovrà affrontare nei prossimi mesi? Ma le emergenze sono sempre quelle che sono diciamo strutturali da un certo punto di vista. Sicuramente la questione della viabilità, torneremo a avere grandi problemi, come dicevo prima, sul Brennero, perché deve andare a fare trasporti internazionali, ma anche sulla viabilità ordinaria italiana, perché lo Stato deve capire, ed è, mi sembra che abbiano anche capito, che si debba mettere mano alle infrastrutture italiane, perché basta muoversi anche oggi o ieri o domani per trovare le autostrade bloccate, sature, i ponti che sono quelli che sono, e quindi automaticamente la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture stradali è alla base, diciamo, di quello che è la mobilità e quello che è anche il settore del trasporto possa procedere in un modo abbastanza lineare e oserei dire pulito. Certo, sul fronte invece dei veicoli abbiamo assistito negli anni scorsi ad un incremento della sostenibilità dei veicoli messi in commercio, tra l'altro ci sono stati anche dei provvedimenti governativi per favorire il ricambio del parco circolare. Qual è attualmente la situazione in Italia? Situazione in Italia oggi, dopo aver picchiato, come si suol dire, il chiodo per alcuni anni, siamo riusciti a portare a casa un pacchetto importante di aiuti per cambiare i veicoli, un pacchetto che ha 122 milioni di euro di aiuti. Abbiamo chiesto al governo di poter dividere questo pacchetto in due step per dare proprio una mano guardando l'autunno, cioè un primo step di 40 rotti milioni di euro parte già da ottobre di quest'anno, del 2020, l'altro 40 milioni di euro andrebbero al diciamo a maggio del prossimo anno, per dare la possibilità anche al trasportatore che non ha ancora deciso, che non sa se cambiare il camion, vuole vedere com'è l'economia, come viaggia, di poter dire certo, vado secondo il step mercato, e il certo, prossimo anno guardare chiaro. Il mercato, quindi 120 milioni sono un pacchetto importante, corposo, per cambiare i veicoli. Sicuramente all'interno di questo cambiamento vengono finanziati veicoli di ultima tecnologia, sia metano, LNG, sia CNG, sia elettrici e sia anche le ultime generazioni di diesel che hanno fatto dei passi certo. da leone, perché oggi non si parla più di Euro 6, ma si parla, se ci fosse ancora la classe Euro saremmo già all'8 minimo, quindi cioè, i passi sono stati fatti in modo molto importante. Il governo, anche da questa parte, dobbiamo ringraziarlo perché ci ha ascoltato di dividere questo pacchetto in due step. Certo. È una cosa molto importante per l'autotrasporto, per il piccolo, per la grande impresa. E noi continueremo a seguire con attenzione, ovviamente questo mercato termina qui, l'appuntamento di oggi con Container. Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e presidente di Unatras. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato intorno alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.